che tanta indiavolata! A mia Dorina è la ragion, io ne mancai di fede. Di Clarice i bei lumi arde il mio core, ed ella piange il mio perduto amore.